La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige Sud Tirol e la Valle d'Aosta Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La regione Trentino Alto Adige Sud Tirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, N e S, possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui è l'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. L'articolo 116 riguarda le autonomie speciali e quindi innanzitutto le regioni a statuto speciale. Qualche ascoltatore potrà rimanere sorpreso dal fatto che abbiamo saltato l'articolo 115, ma non è stata certo una dimenticanza. È solo il fatto che l'articolo 115, come altri articoli della Costituzione, è stato abrogato nel 2001, quindi dal 114 oggi si passa al 116. L'articolo 116 ci ricorda che 5 regioni dispongono di forme e condizioni particolari nella loro autonomia, secondo i loro statuti speciali. Le regioni a statuto speciale sono le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, e poi quelle tre aree del paese, quelle tre regioni che si trovano accanto ai confini, ma che hanno anche particolari condizioni di bilinguismo e comunità residenti anche alloglotte, anche cioè di lingua straniera. E quindi le regioni a statuto speciale sono Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Peraltro va ricordato che il Trentino Alto Adige opera normalmente nella sua sottoripartizione in due province, le province autonome di Trento e di Bolzano. Al di là di questa fotografia storica, perché la questione dell'autonomia speciale è essenzialmente storica, il terzo comma dell'articolo 116 è invece molto attuale e interessante, perché è l'articolo che consente ad altre regioni, quindi regioni oggi ordinarie, di chiedere l'autonomia speciale. E questo articolo è diventato di grande attualità in questi mesi, soprattutto perché le regioni Lombardia e Veneto hanno proposto un referendum popolare proprio per attivare questo articolo. Ovviamente l'articolo 116 terzo comma non prevede che occorra un referendum popolare affinché una regione chieda più autonomia, cioè chieda autonomie speciali. Tuttavia, la Lombardia e il Veneto hanno voluto accompagnare la loro richiesta da una consultazione popolare, proprio per far intendere in maniera vistosa che il popolo regionale, quindi la popolazione regionale, è sicuramente orientata a rendere più differenziate e più autonome quelle regioni.